Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Oggi è la seconda puntata speciale dedicata alla fiera delle startup che si terrà lunedì 17 giugno presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa 91 a Milano, powered by Radio 24 e Nova e in collaborazione con la Business School del Sole 24 Ore, Startup Me e Startup Business. Solo i migliori partecipano all'evento. Visto il numero delle adesioni, i prescelti potrebbero arrivare a 200 anziché a 100. E domani è l'ultimo giorno per iscriversi sul sito fieradelestartup.com. La formula della fiera prevede l'assegnazione gratis di uno spazio limitato ai partecipanti, i quali si devono portare fisicamente a mano e allestire il proprio stand o baracchino sotto ombrelloni colorati. In attesa di vedere dal vivo gli startuppari, ecco le storie scelte per raccontarvi le idee anticrisi che stanno cambiando l'economia in tutto il mondo. Oggi tocca alle idee per i servizi per il business. La scorsa puntata era dedicata a quelle per il tempo libero. Smartland. Smartlandlife.com è alta tecnologia, intrecciata a una forte componente creativa, anni di esperienza maturati nella ricerca universitaria confluiti in una startup. Dai primi e misteriosi computer palmari con i quali si realizzavano primordiali guide turistiche al presente che parla di app su iOS e Android, di realtà aumentata e soluzioni software innovative. Francesco Pini. La lampadina si è accesa quando abbiamo capito che ingegneria e creatività dovevano essere messe sullo stesso tavolo e dovevano essere mischiate. I direttori marketing delle aziende chiedono soluzioni digital, pochi sono gli interlocutori che sono in grado di affrontare una sfida di questo genere in maniera seria. Smartland nasce proprio vendendo l'approccio giusto ai progetti digital. Quindi voi vendete sia l'approccio ma anche una qualche idea e tecnologia, cosa? Sì, noi ci siamo dati questo motto, ovvero appunto se tu puoi sognarlo, noi possiamo farlo, e questo non è lontano dalla realtà, nel senso che avendo le competenze per farlo, di fatto si può lasciare assolutamente correre l'immaginazione del cliente. Che cosa vi ha aiutato e soprattutto perché avete scelto la fiera delle startup? Abbiamo scelto la fiera delle startup perché abbiamo realizzato tanti progetti cercando di dare forma all'immaginazione del cliente, ma ora vogliamo dare forma anche alla nostra immaginazione, che ovviamente non abbiamo mai nascosto. La volontà, insomma, di uscire con un prodotto nostro è forte, quindi insomma l'idea di chiedere un aiuto appunto degli interlocutori che noi crediamo potremmo incontrare appunto alla fiera degli startup è il motivo. Ecco, voi cercate investitori, ma bisogna anche saperle vendere queste idee. Sì. Avete pensato ai prossimi sviluppi, insomma, delle vostre idee? Sì, abbiamo pensato al mercato innanzitutto, abbiamo pensato che cosa avesse senso proporre oggi. Abbiamo fatto una riflessione su anche cosa significa lavorare in Italia, per esempio. Noi ora col tempo stiamo avendo degli interlocutori stranieri, per esempio nei nostri clienti principali, ha la sede poco fuori Copenaghen, ad esempio, e ci siamo per esempio resi conto che per crescere bisogna andare fuori dall'Italia, cioè fuori dall'Italia bisogna lavorare con interlocutori, insomma, internazionali. Quindi analizzando appunto il mercato e lavorando su che cosa abbia senso fare oggi sul mercato, abbiamo pensato di proporre qualcosa che abbia a che fare con lo stile di vita italiano, con i made in Italy, ma che guarda molto lontano e a paesi lontani che stanno crescendo. In passato vi hanno aiutato i business angel, incubator, avete avuto qualche aiuto dalle istituzioni, dagli enti? Devo dire che siamo orgogliosi di dire che chi ci ha aiutato sono state le aziende con le quali abbiamo lavorato. Siamo cresciuti perché le aziende hanno creduto che noi potessimo dargli una mano. Non abbiamo ricevuto finanziamenti, non abbiamo ricevuto aiuti, siamo entrati subito sul mercato e ci ha aiutato il mercato. Il prodotto principale di Midnight Call è il portale web www.fazland.com. È un sito che permette ai clienti privati di richiedere preventivi per i servizi, compilando un modulo semplice e mirato, e ai professionisti di mettersi in competizione diretta tra loro per ottenere nuovi lavori e acquisire nuovi clienti senza spendere in pubblicità. Un sistema di geolocalizzazione aiuta a far incontrare domanda e offerta, per migliorare e rilanciare l'offerta secondo diversi criteri quantitativi come il prezzo, ma soprattutto qualitativi, altri interventi e certificazioni. Vittorio Guarini. Il percorso, il progetto parte poco più di un anno fa, quando io e due miei soci, nonché migliori amici di Reggio Emilia, con cui sono cresciuti insieme, abbiamo iniziato a ragionare sul mondo dei servizi privati. Quindi in particolare uno di noi tre, Alessandro, che viveva in Danimarca e si è trovato a confrontare in una realtà dove non aveva il meccanico di fiducia, l'idraulico di fiducia, l'imbianchino di fiducia, e ha cercato di capire se ci fosse una soluzione innovativa per poter risolvere questa insoddisfazione di non trovare confronti tra i preventivi in una città magari dove un professionista si sposta e non ha contatti diretti. Quindi abbiamo raccolto un po' le idee, abbiamo maturato questo progetto, il progetto Paltan, che come mission si propone di provare un po' a rivoluzionare questo mercato dei servizi privati, dove normalmente sia il cliente che il professionista sono insoddisfatti. Il cliente perché non trova confronto, non trova proposte con il giusto rapporto qualità-prezzo, e il professionista che non trova clienti con cui mostrare il proprio merito e quindi promuoversi senza pubblicità onerose. Perché avete scelto la fiera delle start-up? Beh, allora noi siamo partiti autofinanziandoci, quindi io e i miei due soci abbiamo sviluppato questo portale di aggregazione di domanda-offerta. L'abbiamo proposto in una versione beta a settembre 2012, autofinanziandoci e mantenendo provvisoriamente le nostre occupazioni. Dopo una serie di mesi di ricerche e di sviluppo, abbiamo lanciato ad aprile 2013 il portale falzan.com in versione ottimizzata, dopo aver raccolto anche i feedback da parte degli utenti e dei primi professionisti iscritti, e abbiamo cercato canali come la Fiera delle Startup, che non solo dessero un po' una vetrina sul mondo all'esterno dove poter raccogliere ulteriori suggerimenti, ulteriori spunti, ma anche ci facesse fare un po' di network in questo mondo delle startup e magari con un occhio critico anche del mondo dell'editoria o di potenziali imprese che ruotano intorno al mondo che noi prendiamo come riferimento, possano darci magari l'opportunità di trovare un partner che voglia credere con noi nel progetto e magari provare a investire in questo percorso di crescita. Quindi anche su questo l'abbiamo trovato come un'opportunità unica. Medigenia.com è un servizio di sanità digitale per prevenire le reazioni avverse ai farmaci. Oggi è la quarta causa di morte nella popolazione. Medigenia, grazie alla tessera sanitaria, controlla tutti i farmaci e parafarmaci acquistati dal paziente. Se si rileva un rischio per la salute, Medigenia avverte prontamente paziente e medico. Il servizio è attivo in Friuli Venezia Giulia, con più di 2.000 pazienti iscritti, ma in via di espansione. Silvia Ussai. Beh, l'idea ci è nata a diretto contatto con i nostri utenti, se vogliamo, nel senso che lavorando all'interno dell'ospedale ci siamo resi conto che i pazienti arrivavano con doppie prescrizioni oppure prescrizioni di farmaci non compatibili tra di loro, perché magari erano affetti da più patologie ed erano in cura con specialisti differenti che per vari motivi non riuscivano a comunicare tra di loro. Oppure altri casi abbiamo avuto, per esempio, di pazienti che si intossicavano con farmaci da banco, che tutti noi riteniamo innocui, ma che per una persona che è già in terapia possono invece rappresentare un pericolo. E quindi da qui abbiamo avuto l'idea di creare una sorta di bridge che potesse mettere in rete tutte le informazioni riguardo alla terapia proveniente da tutte le sorgenti, quindi il medico di medicina generale, il farmacista e l'ospedale. Sostanzialmente il codice fiscale, il proprio codice fiscale, ogni paziente crea un suo proprio profilo farmacologico che viene costantemente aggiornato in base alle prescrizioni da parte dell'ospedale e dei medici, ma anche agli acquisti che effettua in farmacia, e in tempo reale si effettua un match tra tutti i farmaci che sono già presenti nel profilo e quelli nuovi acquistati per verificare se le somministrazioni sono compatibili. Tutto questo attraverso un sistema cloud. Quindi è tutto automatico. Che cosa ha aiutato voi a mettere in piedi questa idea e perché siete approdati alla Fiera delle Startup? Sicuramente la Fiera delle Startup con Sole 24 Ore è un'ottima occasione per noi, perché in questo momento il progetto è attivo in Friuli Venezia Giulia con più di 2.000 iscritti, ma il nostro obiettivo è individuare nuovi partner per estenderlo sul territorio nazionale. Abbiamo ricevuto fin da subito come startup supporto da Area Science Park, che è uno degli incubatori principali del Nord Italia, e Medigenia fa proprio parte di Area Science Park, la Camera di Commercio di Gorizia, e poi noi abbiamo contribuito con il capitale iniziale per partire e ovviamente il know-how. Oltretata. Oltretata.it è un motore di ricerca geolocalizzato che facilita l'incontro tra famiglie e educatori in tutta Italia. È possibile trovare la persona adatta, visualizzare i profili delle educatrici più vicine alla propria abitazione, età, formazione, esperienza, disponibilità e contattarle. Francesco Fullone. Oltretata nasce dall'idea di un mio collega, sua moglie. La moglie come lavoro faceva la tata, la babysitter, e comunque dava supporto ai bambini, e aveva grossi problemi nel farsi conoscere. Quindi prima ancora di essere visto come un problema per i genitori, per le famiglie, è stato visto come un problema per le tasse. In seguito a me è nata una bambina e ho iniziato ad avere il problema contrario. A chi posso lasciare mia figlia, ma come faccio anche a sapere quali sono quelle vicine a casa mia? E questo ha portato poi a nascere di Oltretata. Ecco, un'esigenza che è basilare in questo mondo in cui si vuole conservare lavoro e non si vuole appunto perderlo, però è anche un'esigenza che ha un buon mercato. Come si possono rivolgere a voi le famiglie? Qual è il vostro modello di business? Oltretata permette innanzitutto alle tante di registrarsi gratuitamente. Oggi ce ne sono circa 8.000 registrate sul portale su tutto il territorio nazionale. I genitori e le famiglie allo stesso modo si possono registrare gratuitamente per tutta la fase di ricerca della tata, quindi per utilizzare il motore di ricerca, per visualizzare i profili delle tate, quindi per sapere quali sono quelle che hanno i requisiti necessari, e successivamente dovranno pagare una fee per contattare le tate. In realtà stiamo valutando di far crescere il modello di business, affiancando a quello che è la semplice ricerca di tate anche l'inserimento di servizi a valore aggiunto per i genitori, come ad esempio il recapito a casa di pannolini piuttosto che beni di consumo. Ecco, voi come siete stati aiutati a mettere in piedi, diciamo, questa organizzazione e perché siete approdati alla Fiera delle Startup? Oltretata è stata incubata all'interno di Ideato, che è un'azienda che nasce per dare supporto alle startup. L'approdo alla Fiera delle Startup nasce per farci conoscere e soprattutto per trovare delle opportunità che ci aiutino a crescere, proprio per portare avanti il processo di inserimento dei nuovi modelli di business relativi alla vendita online e servizi di trasporto a casa di beni di consumo. Queste le storie di oggi, ma se volete ascoltare le precedenti o scriverci, Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24 con 24 in numero, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog su www.radio24.it. Appuntamento allora il 17 giugno con la Fiera delle Startup. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza, un saluto da Anna Marino.